Dunque, del metamodello 2. Il metamodello 2 è uno strumento linguistico per portare, per facilitare il passaggio dalla piccola alla grande mente. E parto da un'esperienza, da una cosa concreta. Una madre dice: mio figlio è pigro. Ecco, mettiamo. Allora, secondo il metamodello 1, in quale occasione, cosa intendi specificamente per pigro, trasformi pigro, che è una nominalizzazione, in un verbo, e poi via, e analizzi come funziona. Nel metamodello 2 si bypassa tutto quanto e si dice: ciò significa che nella tua casa si pratica la danza da pigrizia. E la persona, la madre dirà: beh, sì, mio figlio la pratica. No, io sto dicendo nella tua casa viene praticata. E quindi la mia domanda è: in che modo tu sei pigra? Controsenso, no, ma io non sono pigra, io mi do da fare, mi alzo al mattino, faccio qua, rigo, eccetera, è lui che è pigro. Ok, cosa intendi per pigro? Intendo che lui non fa le cose importanti che ci sono da fare. Ok, e lui è un bambino. Ok, allora mi chiedo: quali sono le cose importanti che tu non fai? Ma io le faccio tutte. No, ce n'è una che non fai, ce n'è una che tu stai dando un'etichetta a tuo figlio, e le etichette sono parte del processo conoscitivo 2, mentre come esseri umani possiamo arrivare al processo conoscitivo 3. E cos'è il processo conoscitivo 3? È quello che opera distinzioni senza giudicare. Nel momento che distingui senza giudicare, tu stai seminando felicità. Nel momento che giudichi, crei dolore. In questo senso, tu stai partecipando alla stessa danza di tuo figlio. Anche tu sei pigra, perché anziché passare dal secondo al terzo livello, te ne rimani sul secondo. Questo è quanto. E come hai fatto il secondo? Attraverso il giudizio. Dunque, la pigrizia da dove nasce? Analizziamo la pigrizia. La pigrizia c'è quando nella stessa stanza ci sono dei doveri. Non c'è pigrizia senza doveri. I gatti non sono i pigri, gli elefanti non sono pigri. Non esiste la pigrizia in natura. La pigrizia esiste nell'uomo. L'uomo che crea doveri crea il fiume dove poi scorrerà la pigrizia. La pigrizia è la contrapposizione ai doveri. Ma i doveri ci sono nella vita. Bisogna distinguere. Doveri, inteso in senso autoritario, li ha costruiti l'uomo. Sono ciò che qualcuno dice a un altro che deve essere fatto. E naturalmente i doveri possono prolificare all'infinito. Quando noi entriamo nella grande mente non parliamo più di doveri, ma parliamo di scopi evolutivi o di mezzi involutivi. Allora, praticare il giudizio e quindi dare a qualcuno del pigro è un modo per praticare la pigrizia. Quindi cosa ti sto dicendo? Che stai praticando la stessa danza di tuo figlio. E poi ti chiedo: tu non sei mai pigra con te stessa, non ti sforzi a fare le cose? E dal mattino alla sera mi sforzo a fare le cose. Benissimo, ogni volta che ti sforzi di fare qualcosa e che lo fai tutto sommato controvoglia, qualcuno la pagherà. Quindi ogni volta che noi ci poniamo dei doveri e degli obblighi e facciamo una gran fatica per adempierli, oltre a noi stessi che facciamo fatica, ci sarà qualcun altro che pagherà le conseguenze di questo. Perché stiamo praticando la danza doveri, pigrizia, doveri, obblighi, pigrizia. Quindi ti sto dicendo che dentro di te esiste una parte pigra come quella di tuo figlio, perché la danza è la stessa. Doveri, ribellione, pigrizia. In che modo puoi cambiare questa danza in una danza più evolutiva, che proceda anziché tra doveri e contrapposizione a doveri, in visione più ampia, fare le cose perché è importante farlo, perché ci sentiamo connessi a qualcosa di più grande di quello che è la piccola operazione quotidiana. Ma io vado a fare la spesa è indispensabile, certo. Se tu però occupi la tua mente a fare la spesa, pratichi il pensiero sulla spesa senza tener conto di una visione più ampia, tu stai alimentando la piccola mente. I piccoli pensieri, se non sono collegati a qualcosa di più grande, generano semplicemente piccola mente. Anche pensieri più innocui. Se io dal mattino alla sera non faccio che pensare a piccole cose, senza tener conto della visione più grande, perdo il contatto col divino, perdo il contatto con l'unità e quindi genero una struttura che è in grado soltanto di riprodurre piccolamente. Inizialmente non è evidente questo, ma dopo però comincio a soffrire, c'è sofferenza, comincio a produrre giudizi e così via. Allora, come si esce dalla pigrizia di tuo figlio? Attraverso l'esempio. I figli ricevono l'esempio dei genitori. Si modellano sui genitori. Se i genitori non sono pigri, vuol dire anche che non si pongono i doveri e non vanno incontro a mille cose che sono superflue. Sappiamo che cosa intende nel buddismo, cosa si intende per pigrizia, si intende darsi da fare per cose tutto sommato irrilevanti, oppure darsi da fare per cose che sono anche, hanno una certa importanza, ma perdendo la visione di sé. Ogni volta che noi agiamo così, stiamo alimentando la pigrizia in casa nostra e naturalmente i più deboli, i figli, imparano a partecipare alla stessa danza che è della parte oppressiva e della parte che cerca di sottrarsi all'oppressione. E questo è quanto c'è da dire sulla pigrizia.